Radio come ben visto, display multifunzione, USB e scheda SD, ma non me ne porto nulla, ripeto, le prendo così, le provo e già me ne porto, già devo fare collezione. Dopo c'è il 27, via. C'è quasi nessuno. Oggi sento Antonio da casa. Arriva, anche dalle 5 è arrivato. Ieri l'altro giorno non ho portato niente, non è arrivata nulla. Adesso invece forse in preparazione, non so, è arrivato tranquillamente a casa, sappiamo, Santiago 5. Poi intanto Giuseppe De Vicino ha sistemato l'antenna della macchina, si è piazzato quella lì a casa sua, almeno entra anche lui al macchino. Poi ieri sono stati intanto uno nuovo con Battisti, si è comprato uno di quegli apparati che hanno l'antenna magnetica in dotazione. Come si chiama? Ma poi c'è lì una cosa del genere, quegli apparecchi già pronti all'uso. Antonio non l'ho sentito io. No. Ma infatti come dicevi tu, non vuoi più nessuno, prima ne valeva la pena, perché comunque se non ti piaceva la ruota di quel canale, te ne ti giravi, andavi negli altri canali, ma andiamo. È per quello che non vale più la pena neanche tenersi le robe, come molta gente ha 15, 16. Aspetta che accendo quello, aspetta che accendo l'altro, collezione si offende. E a voi non viene nessuno per poterli sfruttare tutti, diciamo. È così. Ma giorni che entra un sacco di gente, giorni che non entra nessuno, mi avevi già detto. Vabbè, in estate è sempre stato così. In inverno forse qualcuno in più già entra, perché si annoia, non può uscire. E capito, perché l'estate va al mare. Si fa le divinate, cose del genere, quindi si diverte di più. Ma ho notato questo inverno che lo stesso non verrà nessuno. Non verrà nessuno, cosa? La gente si è stufata, poi oggi con l'internet, WhatsApp, Facebook, la gente si pone un telefonino, prova a venire un telefonino a vedere se si pone la radio. Tu la vai, il bambino a 2 anni già col telefono in mano, capito? Quindi siamo sempre attaccati dalla mattina alla sera e poi gli crea una dipendenza, come è successo a parecchia gente che si è trovato il figlio scontrato, cresce di testa, capito? Se non c'è il telefono in mano. Ora le madri si possono usare il, come si chiama, per farlo dormire, usano il telefonino, usano. Adesso hanno fatto la cosa, la legge, a scuola niente più telefonini, capito? E fatene bene. Prima di entrare o ti lasci a casa oppure o monetta o gestino, no, che ubbidi a fine canduci la cura. Un bel ragazzo ha rovinato il telefono, la mattina lascia la scuola, poi incominciano a fare i filmati, capito? È diventato un troiaio, prima il computer era una cosa bella da usare, adesso con questi telefoni che fanno tutto è diventato un troiaio, è diventato. I ragazzi fanno le mani, fanno i filmati, poi prendono, li mandano agli amici, tutto il gioco, dicono l'amico e tutti tu in casa, tutti quanti cadono in questura. Perché Facebook non è controllato, come si deve. Adesso la moda delle donne che si mettono i video allattando il bambino, ma quando mai, pure i mariti dicono di essere il capo, dice una cosa normale qui e là, ma cosa è una cosa normale? Fare un video apposito e metterlo sui social non è una cosa normale. Una cosa è al mare, che una è al mare è il momento di dare la pappa al bambino, ok, è al mare però, ma non è che fa un video apposta per postarlo su Facebook, fai schifo e boom, non sei zona di gabbia. Non ci sono solo quelle, no? Ci sono figure che si fanno vedere la patata, è notato bene. Tu immagini un bambino, cazzo, che prende e entra in quei lì, dove ci sono quei filmati, e vede quei ragazzi che fanno vedere la patata, perché tra secondi e poi si tirano su i pantaloncini, oppure quelle che si trovano le mutande. È uno schifo. Antone, leggiti, ascoltati quell'audio che ti ho mandato e fammi sapere, mi assento 10 minuti. Va bene, ok. Prova 10, prova 10.